Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 508, nella quale parleremo del ritorno alla ribalta dell'isola carcere di Gorgona, del fiuto letterario di Restiamo Animali, di leoni e rinoceronti da allevamento e della desiderabilità della carne in vitro. Speriamo di avervi incuriositi. Cominciamo questa puntata parlando di Gorgona, l'isola simbolo di un nuovo paradigma nelle relazioni tra umani e non umani. Abbiamo lungamente seguito anni fa le vicende dell'ultima isola carcere italiana attraverso l'attività del veterinario omeopatico impegnato per la liberazione animale Marco Verdone. Abbiamo parlato più volte della sua Carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona, che è diventata anche un libro, edizioni Altra Economia, uscito nel 2012. Ricordiamo, per chi non conosce la vicenda, che il carcere di Gorgona aveva gestito in passato un'attività di allevamento e un piccolo mattatoio, attività nelle quali venivano impegnati i carcerati. Il veterinario Marco Verdone aveva voluto, insieme al direttore del carcere Carlo Mazzerbo, che Gorgona diventasse un progetto pilota originale e innovativo dalla forte valenza etica, ispirato al principio del rispetto dell'alterità come premessa per la rieducazione delle persone detenute. Secondo Verdone, i carcerati non dovevano macchiare le loro mani di sangue, ritenendo quella del macello un'attività inadatta per chi sta compiendo un percorso di presa di coscienza e di rielaborazione di un passato violento. Con il tempo il mattatoio aveva cessato di lavorare e gli animali erano stati definiti partner di relazione e non più beni da cui trarre profitto. Il profondo legame empatico e affettivo che si consolidava tra carcerati e animali faceva di loro dei veri e propri rieducatori. Nel 2016 però il progetto per una Gorgona non violenta venne accantonato. Il veterinario Marco Verdone fu trasferito e nonostante le molte iniziative di supporto e di protesta, il mattatoio riaprì. Oggi sembra che un raggio di sole illumini nuovamente il sogno di Gorgona. Il sottosegretario alla giustizia, Vittorio Ferraresi, si è espresso a riguardo di una riconversione non violenta dell'isola carcere, garantendo l'impegno a smantellare il macello presente sull'isola, in modo che si ponga fine ad attività definite come assolutamente inopportune per i detenuti e affinché si rilancino invece attività sostenibili. Sul tavolo, ha continuato il sottosegretario alla giustizia Ferraresi, ci sono progetti per far partire attività di cura degli animali che rimarranno sull'isola per realizzare un percorso rieducativo, in una logica di rispetto interspecifico che può valorizzare l'umanità e la rieducazione dei detenuti. La seconda notizia della settimana la prendiamo da ilmessaggero.it. Il 17 ottobre un cavallo è caduto in via Condotti a Roma scivolando su un tombino. Il vetturino, pur invitato dai passanti a far visitare il cavallo da un veterinario, ha proseguito la sua corsa in direzione Piazza di Spagna, come se nulla fosse accaduto. Sottoporre gli animali a fatiche disumane nel nome di una tradizione anacronistica è una forma di maltrattamento. I cavalli sono costretti contro la loro volontà a trainare tutti i giorni carichi estremamente pesanti, perché solo la carrozza pesa ben 800 kg, tra il frastuono del traffico e la pavimentazione sdrucciolevole. Le associazioni animaliste chiedono da anni di fermare questo sfruttamento ingiustificato di animali. William Blake è stato il referente culturale di poeti della Beat Generation come Allen Ginsberg e di carismatici protagonisti del mondo del rock come il poeta e cantante dei Doors, Jim Morrison. La scrittrice 57enne polacca Olga Tokarczuk ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018 per la sua immaginazione narrativa che, con passione enciclopedica, rappresenta il superamento dei confini come una forma di vita. Cosa hanno a che fare William Blake ed Olga Tokarczuk? Semplice. Un libro della vincitrice del Nobel, pubblicato in Italia nel 2012, è intitolato Guida il tuo carro sopra le ossa dei morti, un'esplicita citazione della bella poesia di William Blake, Proverbi dell'inferno, che recita tra le altre queste strofe. Guida il tuo carro e il tuo aratro sopra le ossa dei morti. Chi desidera ma non agisce, nutre la pestilenza. Chi non ha luce in viso mai potrà essere stella. Il cibo salutare lo si prende senza rete o senza trappola. E noi di Restiamo Animali sensibili a questa ultima strofa abbiamo festeggiato il Nobel di Olga Tokarczuk, spulciando nel nostro archivio e scoprendo che nel lontano gennaio 2013, quando eravamo ancora al nostro primo anno di trasmissione, Beatrice Montini, la nostra redattrice, recensì per la trasmissione il libro Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. Vi riproponiamo la bella recensione di Beatrice perché la sensibilità animalista della protagonista di questo giallo ci ha convinti e perché il Nobel dell'autrice è un ottimo pretesto per tornare a cercarlo e per tornare a leggerlo. Il libro di cui parleremo oggi coniuga due delle mie più viscerali passioni, quella per i gialli e quella per gli animali, umani e non ovviamente. Proprio per questi motivi, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti della scrittrice polacca Olga Tokarczuk, edizioni Notte Tempo 2012, mi è stato regalato da una carissima amica, Doretta, che colgo l'occasione per salutare. La protagonista e voce narrante del libro è Janina, un'anziana e sofferente signora che dopo aver girato il mondo vive in un remoto paesino della provincia polacca, in mezzo ai boschi. Janina sbarca il lunario insegnando inglese ai bambini e facendo la guardiana alle case acquistate per le vacanze e disabitate durante il lungo e rigido inverno. Un personaggio profondo e drammatico che impariamo a conoscere e amare pagina dopo pagina. Janina è vegetariana, ama la zuppa di senape ed ha alcune grandi passioni: fare gli oroscopi, dare nuovi nomi ad amici e nemici, tradurre in polacco William Blake, da qui il titolo del romanzo, ma soprattutto Janina ama gli animali e odia gli umani che li perseguitano e li uccidono, in primis i cacciatori. Per questo passa il tempo cercando di impedire le battute di caccia nella valle, sabotando le tagliuole e rimuovendo le trappole dal boschio. Una vita non semplice per chi vive in mezzo a compaesani mangiatori di carne, preti che predicano la caccia e il dominio dell'uomo sul creato e allevatori di volpi. Come tutti i gialli che si rispettino, il romanzo si apre con una morte sospetta, quella di un vicino di Janina, da lei soprannominato Piede Grande, un bracconiere, morto soffocato con un osso della cerva che stava mangiando. Si tratta solo della prima di una serie di morti misteriose su cui la polizia inizia a indagare, morti su cui Janina ha una singolare teoria. Si tratterebbe di veri e propri omicidi, compiuti dagli animali selvatici, decisi a vendicarsi degli uomini che li torturano e li uccidono.

È degna di un premio Nobel la ricetta di oggi, curata dal nostro fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico che abbiamo battezzato Il Pasto Gentile. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, casa editrice Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Our song, we used to call it our song. Riporto la definizione presa da Wikipedia di premio Nobel. Il premio Nobel è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile, apportando i maggiori benefici all'umanità per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l'opera letteraria, per l'impegno in favore della pace mondiale. Quindi, partendo da questo punto di vista, si potrebbe affermare che una qualsiasi ricetta cruelty free possiede le caratteristiche per concorrere al premio. Ma dovendone scegliere una, questa settimana vi racconterò una ricetta tipica del Varesotto, terra di origine del Nobel Dario Fo. La zuppa di castagne e riso, o mac. Gli ingredienti per 4 persone sono 120 g di castagne fresche o secche, 120 g di riso arborio, 1 litro di latte di mandorle o comunque un latte vegetale, 2 cucchiai di malto di orzo o sciroppo di agave e un pizzico di sale. Every time I hear that song I could cry. Se utilizzate le castagne secche, lasciatele in ammollo in abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 12 ore. Trascorso il tempo necessario, pulitele da ogni eventuale residuo di pellicina e fatele lessare con acqua leggermente salata. Se utilizzate castagne fresche sarà sufficiente cuocerle una mezz'ora, altrimenti una cinquantina di minuti. Quando saranno cotte, scolatele e schiacciatele con una forchetta in maniera grossolana. A parte fate bollire il latte vegetale, aggiungete il riso, le castagne schiacciate e il malto di orzo e fate cuocere a fiamma bassa per 20 minuti. Servite caldo e, se si gradisce, con una spolverata di cannella. I Andiamo adesso in Sudafrica, dove si verifica l'ennesimo caso di mercificazione della vita ai danni degli animali non umani. La notizia la prendiamo dal Secolo XIX.it del 18 ottobre scorso. Rinoceronti, zebre, ghepardi e leoni sono stati recentemente riclassificati come animali d'allevamento, suscitando il timore di esperimenti rischiosi su specie in pericolo di estinzione per creare incroci e animali geneticamente superiori. Questi animali sono fra le 33 specie selvatiche che ora rientrano in una legge che ne consente l'allevamento selettivo per aumentarne la produzione o le prestazioni. Funzionari del Ministero dell'Ambiente hanno affermato che l'Animal Improvement Act è stato modificato dopo una richiesta da parte di alcune società di allevamento, senza consultazione pubblica. Proprio per questo, la modifica avvenuta nel maggio scorso non è praticamente comparsa sui media. La nuova normativa consente l'inseminazione artificiale, la raccolta di sperma ed embrioni, nonché il trasferimento di embrioni e materiale genetico. Tale materiale può essere raccolto, valutato, elaborato, imballato e venduto. Sebbene questa sia una pratica comune con gli animali da allevamento tradizionali, comporta notevoli rischi per quelli selvatici. Il cambiamento potrebbe avere conseguenze inaspettate, ha affermato Audrey Delsink della Human Society International Africa, citando incroci effettuati in altri paesi di leoni con tigri che però hanno prodotto animali molto malsani. Secondo Karen Trendler, direttore del National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals, c'è stata una forte lobby per far spostare il controllo della fauna selvatica nel settore dell'agricoltura, il che avrà molte implicazioni preoccupanti. Fra queste, il commercio di ossa di leoni, che hanno un mercato sempre più diffuso in Asia nell'utilizzo della medicina tradizionale cinese, così come dimostra il recente sequestro di 340 kg di ossa di leoni, pari a 38 esemplari uccisi. E dove c'è la possibilità di fare alti profitti, aggiungiamo noi, sono gravemente a rischio le tutele e i diritti, sempre, anche quelli che riteniamo acquisiti. E questo in ogni campo, dai diritti umani a quelli animali. Notizia della settimana la prendiamo dal sito internet notizie scientifiche.it e risale al 21 ottobre scorso. Continua il fermento nei laboratori scientifici di tutto il mondo per mettere a punto bistecche animal free. Sembra che un gruppo di ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Science of Food, sostenga di essere riuscito a creare e coltivare bistecche di laboratorio simili per consistenza alla carne vera. dimostrando che gli alimenti a base di carne potrebbero essere prodotti senza necessità di allevare e macellare animali. Sarebbe, sostiene il testo dell'articolo, un'alternativa più verde, più sostenibile ed etica alla classica produzione di carne su larga scala. Ricordiamo che la Cina, nel 2017, ha firmato un contratto da 300 milioni di dollari con 3 aziende israeliane che producono carne sintetica, Super Meat, Future Meat Technologies e Meat the Future. Negli Stati Uniti, Bill Gates e Richard Branson, il patron di Virgin Group, stanno investendo nella Memphis Meats, una startup della Silicon Valley nel settore della carne sintetica. Le critiche intorno alla carne sintetica, però, non mancano, anche e soprattutto nella galassia animalista antispecista e vegan. Il prodotto sintetico, infatti, non farà che perpetuare il mito che la carne resti intrinsecamente desiderabile. Con la carne in vitro, insomma, non si esce dal simbolismo carnista. Non importa che gli animali siano effettivamente risparmiati, perché la simbologia è comunque più importante. Inoltre, non tutti potranno permettersela, la carne sintetica. Ipotizziamo che il prezzo della carne in vitro scenda al punto da essere commercializzata, anche se ha un prezzo più alto rispetto a quello della carne d'allevamento. La carne sintetica sarà dunque un privilegio per pochi, o comunque solo un'opzione in più. Il cambiamento culturale auspicato, insomma, non passa attraverso la carne di laboratorio, che non intacca l'idea che il consumo di carne sia eticamente legittimo. Dunque, la carne in vitro è l'ennesima vittoria del mercato e del profitto e un'occasione mancata di rivoluzionare i modi di produzione e il nostro rapporto con gli animali non umani. Saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 509 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.